i complimenti che ti senti dire hanno a che vedere col fallire e la tua scorza che per forza punge di compiacersi dunque troppo finge. Quandunque fosse che le mosse ignare debbano un plauso meritare, tu decidi che se ridi vivi e sei contento tra gli appellativi. Soltanto se nel pianto una carezza spazza via lo sguardo che disprezza, nel mondo che di fondo ha solo male si cerca quel senso che più vale, si cerca quel senso che più vale, si cerca quel senso che più vale. Sancisce e ribadisce questo scritto che compiacenza no, non è un diritto, che ad ogni scatto sei un riscatto pronto, non è pronto, non è saldo il conto. Del resto se non questo il fine primo, che senza ti deprimi e mi deprimo. Qual si addice a chi conduce questo show sulle rive di Desolation Row? Del resto nati amati dalla gente, oltre a loro non abbiamo niente, e attori o spettatori che noi siamo, null'altro ancor ci generiamo, null'altro ancor ci generiamo, null'altro ancor ci generiamo. Assunto che sei giunta a questo punto, più vicino agli occhi del tramonto, comprendo in più, difendo il tuo bisogno, passando sul dubbio che sia un sogno di un piccolo trabiccolo d'amore che ti sappia in questo tempo accompagnare. Che questi che detesti sono i giorni passati non dentro mai contorni, ti sembra d'ombra tutto il tuo vagare, e niente speri, niente hai da cambiare, sei intanto a volte accanto all'avvenire, non si presenta chi sappia capire, non si presenta chi sappia capire, non si presenta chi sappia capire. E capito che il nemico maggiore è se stessi ed il proprio timore, rimane poi, rimane l'aggrapparci a chi un poco d'amore possa darci, a chi un poco d'amore possa darci, a chi un poco d'amore possa darci.